Friuli nel mondo, 161esima trasmissione dedicata agli emigrati. Motivi popolari friulani. La semplice, patetica e stupenda melodia delle antiche villotte popolari ha mosso l'estro del chitarrista friulano Giovanni Comelli, che con appropriati arpeggi ha saputo esprimere egregiamente i più noti motivi popolari del Friuli senza alterarne la schietta originale espressività. Ascoltate pertanto i seguenti brani: Giovanin color di rose, Mariute saludilu, Dai un tica di che puarte, Sdrindulaile, Vegnin iui ciarniei de ciarnie, E tunin a leon belzovin, Le benver che mi slontani, Il mio ben le latin were, e Alciante il gial. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.